E lui, perché lì mi arriva questo segnale? La faccia del Caspio, c'è anche un piccolo grande, sta un po' da Dio. E ma lì, io non mi taglio le mani, lui non entra più qua. E lasciala pompare. Ciao, vedi, è ormai. Non mi basta la gara, non mi riesci. Comunque a me non apriamo la resta sul bici, non me l'ha sostenuta. Perché niente, resta sul bici, la fai. Non so che ufficiamo, già sta portata, arrivo anche là. Esatto. Occupiamo la frequenza di questo servizio. Questo è il punto di importante. A sovramo la mia cosa. Allora, più di meno bilanciati. Perché siamo un ragiono finito. Non mi sovrammo l'agio. Capito? Bisogna fare così. A che forza bisogna abbigliarli fra i denti. Dammi, fa passare un attimino. Cosa c'è prova? Un po' più basso di te, poco più basso di te. Non mai lo fa. Tu sì. Quindi è qualcuno in mezzo. Tu c'è la tua gente, questo palazzo, con il giorno con la frequenza anche le LED. La tua gente già ha messo. Con me ce l'hai importante. giudicherà anche con la sua vita. Ma dopo ogni cosa è mai capitato, se tu in errore se sono andato. Io ne appoggio. E grazie, parola di grido. A me mi vuole bene. Voi siete in torto, dico. Naturalmente, in orari che non lavoro. Io se non vengo di sera, vengo così, di mattina, va. vada su lui domenica, ohia, mi ha detto buono. Basta lavorare, lavorare. Insomma, io lavoro, il sabato mattina se lavoro pure, almeno così non posso fare. Sì, se lo puoi, ragazzi. Mi stacca da noi perché ho staccato il piede, non ho visto. 3-2 però, 3-2. Ma un po' d'altro. Ci sono puntato verso Gianni. Più che lui non è. Se ne sono preso verso di me, io che ero fortissimo. Se ti siete non basso vuol dire, è quella prossima lì. Ehi, perché sta succedendo di fianco? A Gianni rubini in pieno io. Siete buoni abbastanza in mezzo a me e a Gianni, in crisi, se io non passo verso Gianni. Quindi è lui, e domani per gli schiaffi, me li frutti. Io posso pregare le mani nere, vedi come ti so, ti biasimi. Tu questo? Ah no, ma così la miseria, non me ne lascio che da nato. Sto dicendo che lo si chiosso, cioè, non me ne frega niente. Già lo sa, Antonello. Quando Marito lo ha fatto. Se meglio niente qua, ti giuro qua, Gianni, è venuto con le tasse, mamma mia, era un odore di palfo, mi sono fuggito, neanche l'ho toccato la carina. Come? E da quello che può fare? Un po' di fa, era un giorno già, era 20 batteri allora, siccome è successo 20 anni. Nel 94, non 80, la volta di stelle. Però ancora mi dà l'osso. Naturalmente a Guido io ti viene lasciati in moto, ma se si fuggendo in moto io ti viene lasciati a tu. Tutta cosa mi fa quella volta lì. Hai visto che fosse la macchia si gonza? Hai visto la finaccia di quella serie? Ma come ti puoi dire che potevi approfittare, che avevi la via di cello? Un colpo ci si va di qualcosa, in quel circolo. Che ti canta mantenendo io su di me la fatta di mia faccia. Via, se tu prendi a rischio domani, vuoi tirare a capo un guai. Oh già. Oh, tu era più giovane anche io. E cosa fa la tarina? I curenda che t'accendi, i curenda che t'accendi. Nata lì, nata più in estate, tu mi dirà, lascia così, che tu bene ti fai male. In fondo, prima non dire che ha un bambino, si sente che si sviglia, io dico che non la facciamo sotto solo, va. Dopo mi denunci. E poi chiamo noi, non si mascola. Tu mi sei da fare via a domani sera, non posso la forno della panetta, ci un po' di gento, mi metto un po' d'olio, lo puoi cercare la sapponta. No, non mi sono fatto il cazzo, metti la tua forno della panetta, lasciate a vedere. Non mi posso pagare, lei vedo che è antipotistica, è sempre di sotto, mi faccio pagare, va. Grazie, però mi fai un ferro, perché tu cazzo mi vieni a bocca e quattro parate in biglia, io non sono morto. Sono bravo lì! Sì, sì. E io sono bravo, solo quando mi fanno prendere lo scappo e lui si dice di ecco basta, non ho fatto lo pieno, va. Ecco, non lo facciamo più la tua ragazza, però faccio picchiare da un'altra persona. E tu mi va, a come guardato un medio rosso si distingue, ti voglio dire mi busca. Un anno già si spari e lo faccio finire ma fa abbassare la busta. Allora non ti devi andare la macchina che tu hai fatto, gli studi. Prima gli studi hanno la macchina che tu hai fatto, e due gatti dentro. Ora non si fa più lui. E vuole fare un rispetto, però. Io non ti parlo più. E ti vuole fare un rispetto, non sta dentro lo stesso. Quella busca torna, però. Hai capito? Lui, a parte che non c'entra, perché da servizio ormai, guarda, che lui non c'entra, te lo dico io. E poi, io ho un'altra persona a casa sua, a picchiarlo bene. Io non ci compri. Ma Marco devo mandare a casa sua, ce la farà fare. Chi da Bassone vuoi andare a fare le cuglie, chi da Bassone fa San Bassone. Che bravo, va lì, no, e lui sei bravo. Avanti, avanti io. A che tanto amico mio Burghi? Non ti dico di guasta di come vai da giù, sarà. Ma se la bravo, ho fatto così la cattiva. No, non ti dico di guasta di come vai da giù, sarà. la madrona che ho diventato girare e non si fa male nelle rubine del mondo. Sono capito. Quindi non ho fatto entrare nessuno, ma quello che detto non ho fatto entrare a fare già. A parte che avevo mi tengo anche la notte di ieri. O sono che sono le persone, per me se mi devi mandare a fare già. Lunghissimo, un dito da racchino. Non si mette l'antenna, voglio vedere. Se lo rubai. E la mia si mette l'antenna sopra. Voglio vedere che è riesce a passarmi. A cui sei donna se ne è andato? Passate un momento. Attenzione, la voce calda alla frequenza. Attenzione, se muci fuori alla frequenza. Oh Gianni, svegliati. Ragione, è già mezzanotte quasi. Ah, sfida. Ma poi non so di già farsi mezzanotte meno un quarto. Attento Gianni, svegliati che è presto. Chi sono i drumi da zio? E magari c'è la cadeva la finanziaria. Ai. Vedo che c'è crollato là. L'ha fatto l'altra sera. Capito, stavo scendendo a fare il sogno del baracchino. Con la portante di vita mi si è addormentato. Siamo per franco allora. E crolla di colpo. Lavoro che fai per gente, sono un po', sono una per forza. Ah no. Tu poi ce li devo fare io, e per gente lo stesso, ma non con quello di Gianni. Sì, quello di Gianni è un lavoro, mamma mia. Io non faccio il fabbro giù direttamente, faccio quello di prima. Vabbè, io mi sono venuto pure io. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c' Sì, vedrai che mi ricavo tutte le macchine a gamba, ma di niente. Io dico che qua non c'è stato nessuno di quelli che non devono entrare. E io ti metto la portante. E così farà venire gli altri. Tu di Marrano, io ti faccio entrare Falcone nel canale e hai finito di parlare, scommetti. E dopo io vengo a casa tua e ti tronco il 140 addosso. Mi dai il WhatsApp e potrei anche fino a come maggio per Natale, che mi compromesso. E dalla a me il 140, Io c'ho 180 o 140 nei mambi. E vabbè, chi su chi è? Però lo voglio senza viste. E cosa mi dai in cambio? Di caro. Quanto c'hai, dai? 2-3 euro. Non basta. Altre ti faccio in due. Cos'è lo sai? Tu vuoi gruppo allora? Asco, facciamo così. Fai davanti a me, ma lui c'è un falcone. Che ti posso dare anche un apparecchio. Ci stai? Non come hai fatto per fumare, no? Davanti a me lo fai. E cosa? Una luce su un falcone. Non ho capito. Un anno di senso su un falcone. Di caro. Allora cosa da fare? Non come hai fatto con l'altra volta, no, per sigarette. Che se sentivi fumare ti lavoro l'apparecchio. Ti sei piato l'apparecchio e poi ripeto a fumare. Siamo andati contro lui io però. Ah, chiaro, quando fai così si chiamano io. capisci la cosa ogni giorno io. E cosa fai qui, Filox, la mia? La barba? No, perché non so mai qua l'affitto, visto di casa sua. Mi ricchino, eh. Come cosa fai tu? Sali in quello che pizzeria, fermo a sedere. Sì, io che mi è andata piccola, no? Ma come senti, un tipo dice, ehi Paolo, come andi? Dottore, fai tu, che me sia paralizza. Sentiamo domani.